Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Grazie per le numerose domande, però insomma ero stato banalmente male, influenzato, non è che ogni volta poi uno debba giustificarsi, per carità, però lo prendiamo come un atto di attenzione e di affetto. Veniamo invece all'attualità, ai temi seri, l'attualità economico-finanziaria. Allora, la borsa oggi, come già vi ricordavo nei nostri GR, sta recuperando, più 1,20% Milano, più 2% Parigi, più 2,1% anche Francoforte, più 1% Londra e più 0,30% in questo momento gli Stati Uniti, con l'euro a quota 1,3268. Che cosa è successo? Beh, avete sentito sostanzialmente la strada per l'accordo e quindi le sottoscrizioni dei creditori della Grecia. Sembra una strada in discesa, le conseguenze si sono avute poi anche su tutti i paesi considerati a torto o a ragione vicini al rischio effetto domino, qualora l'accordo con la Grecia non fosse stato fatto, e quindi Spagna ma anche Italia. Lo spread italiano è sceso sotto i 300 punti ed è comunque un bel risultato, e poi è tornato su circa un'ora fa, è tornato a 300 punti esatti, ma insomma era da giugno che non si vedeva un rendimento dei BTP italiani a 10 anni al 4,75%, non lo si vedeva proprio dai giorni in cui iniziò a salire il rendimento, iniziò a salire lo spread, quindi da metà giugno in poi. Era l'8 giugno del 2011, quando sembrano anni fa, in realtà non è passato nemmeno un anno, quando appunto il BTP rendeva il 4,75%. Lo spread, ossia la differenza tra quanto rende il nostro BTP a 10 anni e quanto rende l'equivalente tedesco, è sceso fino a 295 punti. Insomma, partiamo con le campane e poi le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri SMS. C'è anche la riunione della Banca Centrale Europea di oggi. Tra i temi di questa puntata c'è un settore importante, che è quello dell'occhialeria, sia da vista che per diletto, da sole. Si apre a Milano fra due giorni infatti la fiera più importante a livello mondiale, noi siamo leader mondiali anche in questo settore. E poi, come sempre, ci sono anche notizie interessanti su questa crisi, alcune delle quali forse faranno arrabbiare i nostri ascoltatori. Campane e le notizie in breve. Scusate, buon 8 marzo a tutte le donne. A me non è che piaccia molto che sia sempre un 8 marzo, mettiamola così. Per le donne di Radio 24, le ascoltatrici, tutte le donne italiane e anche tutte le donne mondiali. Basta così, visto che molti chiedono di fare un ricordo dell'8 marzo. Andiamo avanti invece con le notizie. Non c'è solo il dato sullo spread oggi a entusiasmare i mercati. Cito altri due elementi. Il petrolio resta stabile a $106, ora è altissimo a 106, però è qualche giorno che si è fermata la corsa. Purtroppo però la benzina ha toccato un nuovo record. Io ormai lo do come notizia di cronaca, sta aggiornando i record di settimana in settimana in Italia. La benzina e anche il diesel. Il diesel è andato a 1,770 euro, la benzina a 1,861 euro. Nel primo caso sono i distributori della Shell, nel secondo caso quelli dell'IP. Ho usato il condizionale sullo swap, come si chiama in gergo greco, perché domani avremo il dato definitivo. Lo swap in inglese vuol dire lo scambio, diciamo, tra le vecchie obbligazioni greche, cioè chi ha comprato a suo tempo privati e istituzionali debito greco, ha in mano delle vecchie obbligazioni, come avvenne per l'Argentina, e deve fare uno scambio con le nuove obbligazioni greche, diciamola così, con una perdita che abbiamo spiegato molto bene, ne parleremo anche nella seconda ora del programma. Ieri la bravissima Deborah Rosciani vi ha raccontato esattamente come funziona lo swap, ossia chi aderisce perde il 53%, 53,5% del valore del titolo, il 46,5% del valore, quello che gli resta in pancia. Insomma, avesse comprato 100 euro di obbligazioni greche, gli restano 46,5 euro. Questi 46,5 euro vengono, in realtà diventano un 15% delle obbligazioni del fondo salvastati IFSF, e l'altro 31% un mix di nuove obbligazioni greche con scadenze fra gli 11 e i 30 anni e i rendimenti fra il 2 e il 4,3%. Insomma, la perdita c'è non solo a livello nominale, non solo perché ti porti a casa il 43% di quello che avevi prestato alla Grecia, ma anche perché poi questo 43%, come avete capito, è tutto un paniere bello intricato con rendimenti tra il 2 e il 4,5%, fermo restando che la Grecia sia in salute, glielo auguriamo, tra 11 anni e anche tra 30 anni. Allora, c'è chi scrive: si sveglia Barigioni, ormai nella società moderna è la festa della donna tutti i giorni. No, guardi, siccome il tema è serissimo, non è un tema da mimose, abbiamo fatto intere puntate in questo programma, non è argomento di oggi, e tutti i dati che abbiamo a disposizione, non parlo solo delle giovani donne al sud, una su otto lavora, ma dimostrano nettamente che esiste ancora un problema nell'accesso delle donne al mondo del lavoro e soprattutto nella carriera interna, per cui non scherziamo su questo. Donne e giovani, se poi una è giovane e anche donna, è dal punto di vista del mercato del lavoro nella peggiore delle situazioni possibili. Comunque, torniamo alla Grecia. Domani alle 6 di mattina greche, o quindi le 7 in Italia, si saprà esattamente quanta è stata la richiesta. Praticamente l'adesione, l'ultimo dato che abbiamo a disposizione è di poco dopo l'ora di pranzo, era già superiore al 60%. 32 banche hanno aderito, ossia Unicredit, Intesa San Paolo, Generali, per quello che riguarda l'Italia. Si dovrebbe arrivare praticamente al 75% in tarda serata. Il 75% è la soglia fondamentale per imporre l'adesione forzata a tutti gli altri, cioè se i due terzi dei creditori verso la Grecia aderiscono a questo swap, a questa rinegoziazione del debito, anche gli altri sono obbligati a farlo. Entro i prossimi 12 mesi, però, sarà necessario ristrutturare di nuovo il debito della Grecia. Allora, io ho aperto con le campane, però insomma, Peter Bonfinger, che non è un personaggio di James Bond, ma è il consigliere economico di Angela Merkel, ha detto: tra, non vi preoccupate, tanto tra un anno siamo punto a capo con la Grecia, bisogna ristrutturare il suo debito. Ora, io non so quali fonti abbia Peter Bonfinger per dire una cosa del genere, però mi inviterei un po' di attenzione, perché dirlo nel momento in cui, con moltissima fatica, convincendo anche i fondi più speculativi che magari speravano in un accordo, si sta chiudendo la vicenda greca, arrivare da Berlino e dire, come consigliere di Angela Merkel, che notoriamente non è che la Germania proprio abbia dato una mano alla Grecia, tanto tra un anno bisognerà ristrutturare, cioè rifallirà tecnicamente di nuovo la Grecia, si becca il gufetto tedesco Peter Bonfinger. Anche perché la Germania fino ad oggi ha incassato 380 milioni di euro di soli interessi per il prestito che ha erogato alla Grecia. La prima volta, ricordate, la prima operazione era inizio febbraio-marzo 2010. Per cui in questo momento la Germania, come paese, ci sta guadagnando dall'aver prestato i soldi alla Grecia. 380 milioni di euro, insomma, buttali via. A quel tempo Berlino mise a disposizione 15 miliardi di euro ad Atene, il governo greco ha pagato su questi 15 miliardi che ha avuto in prestito dalla Germania interessi tra il 3,5% e il 4,5%. Ora, visto che in Germania il Bund rende niente, ha fatto un bel investimento Berlino a prestare i soldi alla Grecia, visto che ci ha guadagnato in media il 4%. con quasi 400 milioni di euro. Per cui, no. A meno che Peter Bonfink non si augurasse una nuova ristrutturazione del debito greco. Magari i tedeschi hanno capito che finché c'è la Grecia i loro tassi restano a zero, ci guadagnano prestando i soldi, hanno sostanzialmente tassi sotto zero, sono i più virtuosi, insomma dovrebbero fare un monumento in Germania ai greci se avanti così. Veniamo all'Italia. Allora, anche la Banca d'Italia è costretta ad ammettere che a gennaio i prestiti delle banche alle imprese, alle famiglie, io lo so, c'è una polemica in corso con l'ABI da parte del governo, avete letto, lo stesso governo e anche i partiti sono in difficoltà perché non vogliono passare per così amici delle banche, che non è un peccato, non è un reato, ma insomma, politicamente evidentemente non paga. Ma insomma, la Banca d'Italia certifica il fatto che comunque i prestiti stanno scendendo. A gennaio il tasso di crescita, cioè continuano ad aumentare, ma il tasso con cui aumentano è notevolmente calato. È sceso all'1,6% a gennaio, era il 2,3% a dicembre, era il 4% a ottobre. E a cosa è dovuto questo rallentamento? Beh, lo dice la Banca d'Italia, perché sono diminuiti i prestiti alle società non finanziarie, quindi industrie e artigiani, mentre sono calati un po' meno, cioè sono calati ma non, un po' meno, i prestiti alle famiglie. Tra l'altro sono scesi, questa è una buona notizia, i tassi di interesse sui nuovi prestiti praticati a imprese e artigiani, dal 4,18% al 4,06%. E poi i consumi italiani, o i non consumi italiani, perché la Confcommercio oggi ha diffuso il dato. A gennaio parte male 2012, meno 1% rispetto a gennaio 2011, è 1% che non tiene conto dell'inflazione, per cui il dato è ancora peggiore. E poi il governo italiano che sta lavorando a un secondo provvedimento sulle liberalizzazioni. Ci sarà una seconda ondata, non so quali categorie verranno coinvolte a questo punto, non è ancora stato stabilito se sarà un decreto legge o un disegno di legge, ma la fonte governativa citata dalla Reuters diceva appunto che vi sarà un secondo provvedimento sulle liberalizzazioni. Il testo del primo provvedimento, dell'unico che conosciamo, è all'esame della Camera in seconda lettura. Nel frattempo però io devo dire una cosa, io spero che abbia, lo stiamo cercando, il consigliere provinciale dell'Italia dei Valori della Campania, si chiama Antonio Palagiano, è deputato campano dell'Italia dei Valori, perché dalla Campania arriva una notizia bellissima. Ma cos'è questa crisi? Allora, in Campania lo scorso 5 marzo, con una delibera presidenziale, parlo della provincia di Napoli, non la regione Campania, Chidovenia, con una delibera presidenziale dello scorso 5 marzo, che sfruttava una sentenza poco chiara del TAR della Campania, i dirigenti della provincia avranno aumenti generalizzati da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 11.000 euro. Per cui c'è un'interrogazione sia del deputato campano dell'Italia dei Valori Antonio Palagiano che di Antonio Di Pietro. Praticamente circa 165.000 euro in più nell'indennità di posizione da pagare ai dirigenti. Complimenti. Ma cos'è questa crisi? Ma non dovevano abolirle le province? Boh, non so. Da 2.000 euro a 11.000 euro di aumento. In realtà c'è chi gli aumenti li dà veramente per la produzione, non per così. per la provincia di Napoli, un ruolo utilissimo immagino, ed è la Volkswagen. Perché? Perché grazie alle eccellenti prestazioni fornite nel 2011, la Volkswagen ha dato un premio di produzione di 7.500 euro agli oltre 100.000 dipendenti, che tra l'altro sono impiegati col contratto collettivo nelle 6 fabbriche tedesche. 7.500 euro di aumento, di premio di produzione per il 2011 a 100.000 dipendenti, non è poca cosa, anche se, e la Germania non è vero che ha il costo della vita più alto dell'Italia necessariamente. Ha comunicato oggi la stessa Volkswagen dalla sede centrale di Wolfsburg, quindi c'è chi parla, resta o non resta in Italia, adesso sembra che resti, e c'è chi dà i premi ai suoi dipendenti. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, il crack del San Raffaele, mentre scopriamo che Don Verzé aveva rapporti, stando alle intercettazioni, con il capo del Sismi, con Polder, col presidente della regione Lombardia, quello un po' ce l'avevamo immaginati, ma in questo momento, visto che San Raffaele è schiacciato da 1,5 miliardi di debiti, stanno mandando all'asta alcune proprietà che obiettivamente poco c'entrano con l'attività clinica, prestigiosissima tra l'altro, del San Raffaele. E allora, i vigneti d'Amarone in Veneto, perché Don Verzé pure quelli aveva comprato, prezzo base d'asta 4.600.000 euro. E poi lo zoo ricavato sotto il cupolone del San Raffaele per un progetto di pet therapy, che sarebbe la terapia che si fa con gli animali. Sì, di solito sono cuccioli che si danno ai bambini, alle persone. Sapete cosa c'era per pet therapy? Lama, fenicotteri, il canguro wallaby. Valgono questi animali 577.000 euro. Ma come si fa a fare il pet therapy con il fenicottero e con lama? Insomma, è tutto. È lo speed therapy, vale. E poi già opzionati per 405 milioni di euro dal gruppo Rotelli, oltre agli immobili vari che appartenevano a San Raffaele, tra cui alcune ville abusive in Sardegna, hotel di lusso in Costa Smeralda, appartamenti in mezzo Italia e persino un resort con piscina tra i cocchi sulla costa brasiliana, continuano a essere messe all'asta anche altre cose, perché l'aereo aziendale, per esempio, è all'asta, si spera di San Raffaele di incassare 7.800.000 euro. Certo che la pet therapy con il lama e il fenicottero ancora non l'avevo sentita. Torniamo seri, anche se queste sono cose serissime, e parliamo del vertice della Banca Centrale Europea questa mattina a Francoforte. Il consiglio direttivo 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, tra l'altro devo dire che su San Raffaele, a un anno dal crack, stanno cercando in tutti i modi di salvare la parte buona della struttura, e quindi la parte della sanità e l'Ateneo, mentre stanno cercando di vendere tutte le attività collaterali. Tra l'altro, terreni immobili sono stati svalutati da 470 milioni di euro iniziali a 200 milioni di euro. E gli incassi previsti dall'asta sull'ascito di Don Verzé, 710 milioni di euro, non basteranno a coprire i debiti, 950 milioni di euro. No, poi c'è una domanda: ma com'è che uno può accumulare 1,5 miliardi di debiti con le banche, e invece se sei un artigiano, se sconfini o se non rientri ti bloccano tutto? Questo è incredibile, cioè vorrei capire come ha fatto Don Verzé a accumulare così tanti debiti per attività, diciamo che il fenicottero è difficile che sia produttivo. Misteri. No, dico, provate voi a accumulare 1,5 miliardi di euro di debiti se siete un imprenditore, e vedete le banche al primo sconfinamento che cosa vi dicono. Vai avanti, vai avanti. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Tu hai mai provato a accumulare 1,5 miliardi di euro di debiti? No, immagino. Non ho mai provato, ma dubito che ci sarei riuscito. Comunque non ho mai posseduto un fenicottero. Neanche un lama, mi auguro, perché... E neanche un lama. Vabbè, allora, senti una cosa. Ho visto questo consulente economico di Angela Merkel, che si è beccato il nostro gufo, la nostra pet therapy si fa con i gufi e con i galli, Peter Bofinger dire che entro un anno la Grecia dovrà di nuovo ristrutturare il debito, cioè fare un default, un fallimento tecnico, è rimbalzata anche nella BCE oppure si tratta di così parole dal sen fuggite? Ma direi che alla BCE di questa cosa non si è parlato, Draghi è stato molto abbottonato sulla questione Grecia, in quanto dice c'è un'operazione in corso che si conclude oggi, se parlate con i banchieri probabilmente a questo punto ne sanno qualcosa più di me, comunque non sarebbe appropriato che io commentassi su un'operazione che sta per concludersi fra poche ore. Quel che sembra di capire, almeno dall'andamento dei mercati, che c'è più ottimismo sulla conclusione dello swap greco. Quello che succederà poi da qui a un anno, naturalmente, tutto... Sì, le adesioni sono buone. Prego Alessandro. Mi sembra che la Grecia oggi fosse abbastanza nell'attesa di questo responso, abbastanza marginale le discussioni della Banca Centrale Europea, insomma. Allora, tra l'altro Draghi ha detto ci sono segni di stabilizzazione nell'euro, come ti ricordavi tu ci sono ancora rischi, le ultime notizie che ci giungono dalle adesioni allo swap greco, quindi allo scambio, alle nuove obbligazioni greche con un taglio da barbiere del 53,5%, sono di un'adesione che ormai dovrebbe aver toccato il 75%, ripeto, soglia fondamentale, perché una volta che aderiscono a questa offerta i due terzi dei creditori greci, l'offerta è obbligatoria anche per gli altri. Però ascoltiamo intanto la Banca Centrale Europea, nella voce di Mario Draghi, dare un commento su sto Fiscal Compact, che al di là del nome vuol dire l'accordo di bilancio in cui i paesi si sono impegnati a mettere per legge i vincoli di bilancio, quelli che a noi costano pesanti, portare il deficit al 60% in 20 anni vuol dire ridurlo del 3% all'anno per 20 anni, cioè 45 miliardi di euro di manovra all'anno per 20 anni. Auguri Mario Draghi su questo. The LTRO, the both operations, I would say are an unquestionable success. Entrambe le operazioni di rifinanziamento a lungo termine a favore delle banche sono state un successo indiscutibile. È migliorato enormemente il livello di rischio e notiamo segnali di un ritorno di fiducia sull'euro. Sono tornati gli investitori. È tornata la domanda da parte di chi era andato via un anno e mezzo fa, dei fondi di investimento, dei fondi pensione. Possiamo dire che c'è stato un grande progresso rispetto alla situazione dello scorso novembre. E questo è stato possibile non solo grazie alle operazioni di rifinanziamento, ma anche grazie agli sforzi sul fronte delle riforme da parte dei membri della zona euro. Inoltre, sottolineo anche il ruolo chiave giocato dal Fiscal Compact. Ora la palla è in mano ai governi e alle banche per andare avanti con le riforme, per risanare i conti in modo da sostenere la ripresa. Le operazioni di rifinanziamento hanno creato questo contesto, ma certamente né i governi né le banche possono essere compiaciuti. But certainly neither governments nor banks nor the other key actors ought to be complacent. Chiaramente il 75% per quello che riguarda lo swap greco sono i tre quarti e non i due terzi. Una nota la devo dare, però attenzione, Atene una volta che ottiene i tre quarti di adesione sul nuovo debito, diciamo sulle nuove obbligazioni, non è che in automatico può obbligare anche gli altri ad aderire, anche i 25% mancante, ad aderire a questa offerta. Con un piccolo dettaglio però, come vi ha chiarito ieri molto bene Deborah Rosciani, che in questo caso devi anche però rimborsare i scattano i rimborsi dei credit default swaps, ossia dei premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi dal rischio Grecia, quindi vi sarebbe un costo ulteriore per Atene. Torniamo a Mario Draghi e Alessandro Merli. Mi è sembrato, Alessandro, oggi un Draghi leggermente più ottimista, cioè nel momento in cui noi stiamo certificando la frenata dell'economia dell'area euro a inizio 2012, chiaramente la BCE guarda in prospettiva, ha detto insomma c'è un forte miglioramento dello scenario dopo le nostre misure. Si è autoincensato? No, diciamo che il miglioramento dello scenario è soprattutto quello della stabilizzazione dei mercati finanziari. Draghi ha ricordato a questi critici, soprattutto tedeschi, di queste operazioni dette LTRO, lo stato in cui si trovavano i mercati nel novembre scorso, cioè le banche non erano in grado di emettere bond, il mercato interbancario era completamente paralizzato, di fatto si assisteva a una situazione di quasi panico dei mercati finanziari, l'investitore fuggiva dall'euro. Dice adesso si è creata una situazione in cui le banche hanno ricominciato a emettere bond sull'interbancario, non è che la situazione sia normalizzata, ma qualcosa si muove e intanto gli investitori, quelli che lui chiama real money, hanno ricominciato a investire ad aver fiducia nell'euro, il che non vuol dire che tutto sia a posto, tanto è vero che la Banca Centrale Europea oggi ha abbassato le sue previsioni di crescita per il 2012, cioè il punto centrale, loro danno di solito una forchetta, il punto centrale di questa previsione è oggi meno 0,1% per il 2012, quindi economia dell'Eurozona che sarà in quella che Draghi già a suo tempo aveva definito una mild recession, una recessione lieve, quindi la situazione non è assolutamente normalizzata, però ha detto Draghi abbiamo eliminato i tail risk, cioè il rischio della catastrofe finanziaria con queste operazioni. Poi hanno contribuito le azioni dei governi sul fronte fiscale. Sì, ecco, posso dire una cosa? Strutturali, eccetera. Era l'occasione ufficiale, la prima occasione ufficiale per Mario Draghi per rispondere al presidente della Bundesbank Hans Widmann, che ha reso pubblica con un atto di grande eleganza la lettera che aveva inviato allo stesso Draghi, cioè il presidente della Banca Centrale Europea, lettera riservata, in cui criticava l'operazione di Draghi, cioè questi 1.000 miliardi complessivamente in due tranche di euro dati alle banche a un tasso di interesse bassissimo, all'1%, per 3 anni le banche possono dare come collaterale, come garanzia quasi qualunque cosa. Per cui quello che è servito a far respirare il mondo bancario, e la BCE, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, si è accorta un po' tardi che era una specie di operazione da banca centrale, cioè era come stampare moneta, stampa moneta di fatto. Devo dire che la perfidia di Draghi è tipica di chi ha studiato dai gesuiti, Alessandro Melli, perché è riuscito a bacchettarlo dicendo, come abbiamo sentito, unquestionable success, l'operazione che abbiamo fatto, cioè l'operazione nostra è stata un successo, e poi però è riuscito anche a dire la Bundesbank è una banca da cui tutti dobbiamo imparare. Sentite questo passaggio. We all have to do the right things and we have to do them together. Dobbiamo tutti agire nel modo migliore e dobbiamo agire insieme. Nessuno è isolato all'interno del consiglio direttivo della banca centrale. In particolare, non è isolata la Bundesbank, e questo per varie ragioni. Oltre ad essere una banca centrale estremamente importante, ho ribadito più volte che tutti dobbiamo moltissimo alla cultura e alla tradizione della Bundesbank nel mantenimento della stabilità dei prezzi. Dobbiamo tutti molto alla Bundesbank e alla Germania, per ciò che abbiamo imparato riguardo alla cultura della stabilità. Ma ora siamo tutti custodi della stabilità, non c'è un unico custode. Tutti condividiamo lo stesso obiettivo e gli stessi ideali. Siamo tutti sulla stessa barca e penso non ci sia nulla da guadagnare da litigi e dichiarazioni pubbliche esterne al Consiglio direttivo. There's nothing to gain to fight or to argue publicly outside the governing council. Allora, vedo molto sulla Grecia, ne parliamo anche nella seconda ora di Grecia. Attenzione, io non ho mai detto, se avete capito così, chiedo scusa, che la Grecia deve pagare i CDS emessi dalle banche. Ho detto solo che se la Grecia utilizza la possibilità che ha, una volta raggiunto il 5% delle sottoscrizioni, di obbligare anche gli altri 25, l'altro 25%, ad aderire a quel patto, a quel punto scatta il pagamento dei CDS, ma non per la Grecia, per chi li ha emessi, per le banche, per chi ce li ha. La Grecia manca solo che paghi pure i CDS. Allora, perfido Mario Draghi con la Bundesbank? Diciamo quantomeno Draghi è stato molto sottile, cioè ha elogiato la Bundesbank, ha anche ricordato a Weidmann, però adesso siamo noi i custodi della moneta, non la sola Bundesbank, siamo noi, quindi l'insieme della BCE, e gli ha anche detto che sicuramente non è litigare in pubblico non è il modo migliore per aumentare la credibilità della banca centrale, ricordando il fatto implicitamente che qualcuno questa lettera di Weidmann a Draghi l'ha fatta al giornale, gli ha data ai giornali tedeschi, e sicuramente non è stato Draghi dice sono sicuro che non è stato Jens chiamandolo per nome di battesimo, però di fatto fra il mittente e il destinatario qualcuno questa lettera l'ha fatta circolare e sicuramente non è stato il destinatario, quindi Draghi. Oltretutto Draghi insomma ha difeso questa queste operazioni condotte e ha ricordato anche che Weidmann ha votato a favore delle operazioni per sé, quindi non contro. Weidmann ha votato poi contro diciamo i dettagli dell'operazione, ma anche qui Draghi ha fornito dei dati per far capire che questo allargamento del collaterale, diciamo questo ammorbidimento delle condizioni per la concessione di questi prestiti da parte della BCE ha avuto un impatto marginale, perché si è trattato di poco più di un decimo del totale che è stato concesso con queste condizioni più accomodati, e gran parte di questo è stato dato a banche francesi e non a banche italiane come qualcuno aveva scritto, e in ogni caso banche francesi che già erano abbondantemente coperte da collaterale prima di questa operazione. L'altra cosa che ha detto Draghi è che di circa 800 banche che hanno preso questi soldi, anche se per importi piccoli, ben 460 erano banche tedesche. Hai capito? In alcuni casi banche piccole e piccolissime, però dice questo era proprio l'intento dell'allargare il collaterale, che anche banche piccole e piccolissime che nella precedente operazione non avevano potuto avere accesso a questi finanziamenti, stavolta ce l'hanno fatta, siccome il nostro obiettivo era quello di far entrare le banche piccole e piccolissime, perché sono quelle che finanziano le piccole le case di risparmio, certo. Che rappresentano l'80% dell'occupazione nell'eurozona, direi che il nostro obiettivo è stato raggiunto e con questo direi che è stato sistemato anche Weidmann. Beh, devo dire veramente gesuitico Draghi in questa sua definizione, perché ha detto brava Bundesbank, ci ha insegnato come si fa la banca centrale, dicendo, però ce l'ha insegnato, adesso tu vedete, sei in pensione perché ci siamo noi. E sono sicuro che non è stato il presidente a girare la lettera ai giornali, peccato che sia uscita perché questo non aiuta la distensione. E poi l'operazione ha funzionato anche perché su 800 banche che hanno aderito, 460, per quanto piccole, erano tedesche. Perfido, il punto giusto. Grazie Alessandro Merli. Meteo, pubblicità, poi la borsa. C'è anche Enel, che non ho ricordato, nel senso che oggi ha diffuso dati dividendo, al mercato non è piaciuto, la reazione del sul titolo è stanetta lungo tutta la seduta, poi ha recuperato qualcosa nel finale. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, torniamo dopo anche dopo sulla Grecia. Resta il mio giudizio, quello del corrispondente del Sole 24 Ore Alessandro Merli, sul modo, ho detto perfido, mettiamolo così, elegantissimo, sottile, in cui Mario Draghi ha risposto al presidente della banca centrale tedesca, dicendo: gli abbiamo imparato da te, grazie per averci fatto questo lavoro adesso che sei in pensione. E poi gli ha anche spiegato che i soldi che la BCE ha prestato sono serviti a 460 banche tedesche su 800 banche complessivamente. Ma vorrei concentrarmi sull'Enel e quindi poi sulla borsa. Perché? Perché la borsa ha fatto più 1,60% e bene andata. Parigi ha fatto meglio, però più 2,5%, Francoforte più 2,5% anch'essa, Londra più 1,20%, l'America sta guadagnando lo 0,44%. C'è stata una vicenda che si è chiamata Enel per buona parte della seduta. Perché lo dico? Perché il titolo era obiettivamente debole e ha chiuso debolissimo. Un leggero recupero, ma insomma meno 5,66% a 2,86 euro. Perché? Perché non sono piaciuti i conti. Ha chiuso il 2011 con un risultato netto di 4 miliardi e 148 milioni di euro, meno 5,5% rispetto al 2010. I ricavi sono saliti dell'8,5%, ma soprattutto è il dividendo quello che l'ha penalizzato, ossia quanta parte degli utili vengono distribuiti agli azionisti. Dal 60% dell'utile si è scesi ad almeno il 40% per il 2012. Sentiamo l'amministratore delegato Fulvio Conti, proprio sull'andamento del titolo e il dividendo, al microfono del nostro Jacopo Matano. Penso che stia reagendo in maniera forse inizialmente emotiva rispetto a le nostre scelte per quanto riguarda la politica dei dividendi. Molti azionisti erano evidentemente abituati ad avere un ricchissimo rendimento dalle azioni Enel, che non penso sia il caso di continuare a fornire, visto che viviamo in un paese, viviamo in economie come quelle dell'Europa che ahimè mostrano un momento di recessione, una caduta del prodotto nazionale lordo e un problema di aggiustamento dei conti pubblici. Questo spinge i consumi verso il basso, spinge i costi verso l'alto e ci sembra a questo punto doveroso, prudente, anche a vantaggio degli azionisti nel lungo termine, di avere una rivisitazione di questa politica di dividendi, che peraltro è comunque una politica di dividendi soddisfacente, ricca, perché stiamo parlando del 40% di un payout di utili che continueranno ad essere molto importanti, per cui il rendimento atteso sarà intorno al 4-5%. Ha ragione Conti nel dire che dare come dividendo il 40% è sempre importante. Il problema è che l'anno scorso, l'anno prima, davi il 60% e quindi la borsa ha reagito di conseguenza. Vorrei continuare con la borsa, con Enel, dopo il traffico, però siamo riusciti a raggiungere il deputato dell'Italia dei Valori, Antonio Palagiano. Mi sente, onorevole? Sì, la sento, buonasera. Buonasera, resti con noi perché questa cosa degli aumenti che si sono dati alla provincia di Napoli, l'abbiamo ricordata nella nostra rubrica Ma cos'è questa crisi, è incredibile, da 2.000 euro a 11.000 euro, alla faccia della crisi. Resti con noi, c'è il traffico, poi vorrei capire se è vero, spero di no, e poi torniamo alla borsa, a Enel e alle obbligazioni greche. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di continuare con la borsa, vorrei, chi ha seguito l'inizio del programma lo ha sentito, c'è un'interrogazione di due deputati, uno è Antonio Di Pietro, il presidente dell'Italia dei Valori, e l'altro è il suo compagno di partito, Antonio Pagliano, deputato campano appunto dell'Italia dei Valori, che è in collegamento con noi. Pagliano, ma voi avete capito, avete avuto notizia che la provincia di Napoli lo scorso 5 marzo, che cosa ha fatto? Beh, buonasera a tutti, mi chiamo Palagiano. Palagiano, mi scusi. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che nel 2007 la provincia di Napoli ha avuto un'ispezione del Ministero dell'Economia e Finanze, che aveva già all'epoca riscontrato delle anomalie per quanto riguarda le indennità di posizione, che erano troppo alte. E diligentemente il presidente Cesaro nel 2010 è rientrato in realtà di quei 150.000 euro di cui si vanta, riabbassando in pratica questa indennità di posizione. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che nel 2011 in realtà ha riformulato la pianta organica, ha riorganizzato la provincia, diciamo mettendo dei nuovi posti apicali. Prima c'era soltanto l'apicalità 2, invece ha introdotto la 1, la 2 e la 3, e quindi ristrutturando il vertice ha restituito a quelli che prima avevano avuto una riduzione tutto quanto aveva risparmiato prima. In realtà è stato un trabocchetto per dare a questi funzionari dirigenti quello che non potevano avere, perché in realtà il fondo previsto per i dirigenti doveva essere ridotto, in quanto nel frattempo molti erano andati in pensione. Quindi anziché dire facciamo cassa, risparmiamo, perché sono andati in pensione diversi dirigenti, ha inteso invece dare la torta in meno persone, e quindi attribuendo questi soldi in più a fine mese, che riguardano diverse migliaia di euro. Perciò abbiamo interrogato il Presidente del Consiglio Monti, ovviamente per fare chiarezza su qualcosa che fra l'altro è anche vietato, perché ricordo che l'articolo 9 al comma 2 bis del decreto legge del 78 del 2010 in verità impone l'automatica riduzione delle quote dei cosiddetti cessati, cioè di quelli che non lavorano più, e invece è stato ignorato questo punto di legge. Quindi, onorevole Palagiano, chiedo scusa per prima, se ho ben capito, dopo quella sentenza, a quanto ammonta complessivamente? Perché noi abbiamo visto una cosa da 2.000 euro a dirigente a fino a 11.000 euro a dirigente. Sì. Ma complessivamente quanto sborserà in più la provincia, per essere ancora più chiari? 165.000 euro. Sì, sì. Per i dirigenti. In un momento in cui tutti gli italiani sono, o gran parte degli italiani sono per l'abolizione delle province e per il risparmio dei costi della politica, questo è davvero uno schiaffo nei confronti delle famiglie italiane che tirano la cinta e che non ce la fanno più ad andare avanti. No, poi non si capisce perché reintrodurre una cosa su cui c'era già stato un intervento in precedenza è una riduzione. Con quello che lei ricordava, nel frattempo molti dirigenti se ne sono andati, per cui la torta viene distribuita a un numero più piccolo di persone. Ecco perché si arriva da 2.000 a 11.000 euro in più ai dirigenti della provincia di Napoli. Massimo rispetto per i dirigenti della provincia di Napoli, io le province le vorrei chiudere, per cui si figuri. Comunque, se il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, del PDL, vuole intervenire, noi siamo qui domani mattina, stasera, domani pomeriggio. Grazie all'onorevole Antonio Pallagiano. C'è il GR, poi torniamo invece con la borsa, con il caso Enel, con i debiti, con il dividendo che si riduce, mentre la Grecia fa sapere di aver toccato la quota del 75% di adesioni alla nuova proposta di ristrutturazione delle sue obbligazioni. GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Confermo che si è raggiunta la soglia del 75%. Ho già chiesto scusa, non sono i due terzi, sono i tre quarti. Non continuate a ricordarmelo se potete. Dicevo, la soglia delle adesioni all'offerta greca, la ridefinizione di quello che la Grecia potrà dare ai suoi creditori, potrà dare con scadenze lunghe, lunghissime, tra gli 11 e i 30 anni. È importante la soglia del 75% perché è la soglia che poi può permettere alla Grecia di obbligare all'adesione anche chi non ha aderito fino adesso, cioè il restante 25%, ed è importante perché la soglia, però, in quel caso, se la Grecia obbligasse anche gli altri ad aderire, scatterebbero i pagamenti sui CDS, sui credit default swaps. Però prima di tutto concludiamo con la borsa. Abbiamo ascoltato l'intervento del numero uno dell'Enel, Fulvio Conti, che ha spiegato come il payout sui dividendi scenderà dall'attuale 60% dell'utile netto ordinario ad almeno il 40%. Vuol dire che Enel, che fino adesso ha distribuito il 60% dell'utile netto ordinario, l'ha distribuito sotto forma di dividendi per gli azionisti, ridurrà di un bel po' quello che distribuirà. Conti dice, è comunque il 40% dell'utile netto che andremo a ridistribuire, il mercato non l'ha presa bene come era immaginabile, il titolo ha perso il 5,66%. E allora facciamo la borsa con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Come sempre commenteremo Enel, ma non solo, perché altri titoli si sono mossi bene. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Beh, di Enel è il dividendo, mi sembra, che abbia influito, sì, no? Soprattutto esattamente il taglio del payout, che insomma è più di quanto si aspettasse la maggior parte degli analisti, quindi diciamo che oggi ci sono state una serie di commenti di revisione al ribasso, sia anche dei target price, ed è proprio l'elemento che ha pesato di più sulle quotazioni del titolo, che fin dall'avvio è stato il peggiore, e ha concluso infatti la giornata in coda al FTSE MIB, come ricordavi tu, un calo del 5-7% quasi. Esatto, tra l'altro l'indebitamento di Enel è leggermente sceso, ma resta alto, è dai 44,9 miliardi del dicembre 2010 a 44,6 miliardi. Il dividendo proposto quest'anno è di 26 centesimi di euro per azione, di cui 10 centesimi corrisposti già come acconto a novembre del 2011. A2A meno 0,80, il resto dei titoli invece bene si è comportato. Ricordavamo che Milano ha chiuso con un più 1,6%, meglio hanno fatto Parigi e Francoforte più 2,5%, Londra più 1,20%. Il botto oggi l'ha fatto in pregilo più 8,76%, sempre i scenari sull'assetto azionario. Sì, esattamente, qui in vista dell'assemblea che sarà il 3 maggio, ormai il mercato scommette su una battaglia per il controllo del gruppo tra la famiglia Gavio e il gruppo Salini. Sì. Oggi è stato reso noto che il gruppo Salini ha continuato gli acquisti su Impregilo, comprando un altro più del 2%, quindi salendo oltre il 22%, quindi insomma Salini non molla la presa sulla società, e quindi probabilmente appunto si andrà alla battaglia con Gavio per il controllo. Questo ovviamente è uno scenario che accende l'appile speculativo sul titolo, e quindi oggi molti investitori hanno premiato le quotazioni, che sono salite dell'8,76%, facendo segnare la migliore prestazione tra i titoli a maggiore capitalizzazione. Prysmian, ex Pirelli Cavi, più 5,60%, titolo che si comporta da tempo molto molto bene. E commentiamo sia Prysmian ma anche Steam Microelectronics, più 5,70%. Per quanto riguarda riguarda Prismian, qui si tratta anche in questo caso dei conti, questa volta si tratta di risultati migliori delle attese del mercato, e nel 2011 l'utile netto rettificato è salito del 33,5% a 231 milioni, il risultato netto è stato negativo, quindi c'è stata una perdita di 145 milioni, ma si tratta di oneri e non ricorrenti e straordinari, quindi in definitiva i conti sono stati migliori delle attese degli analisti, quindi gli investitori hanno premiato il titolo, che ha accelerato proprio fin dall'avvio, i conti sono stati diffusi nella serata di ieri e alla fine ha guadagnato il 5,6% quasi. Per Altimetro Electronics oggi non ci sono notizie particolari, è la seconda seduta consecutiva di buon rialzo, anche ieri il titolo era stato tra i migliori, oggi è salito del 5,68%, comunque in un settore industriale che è stato tutto ben intonato nella giornata di oggi. Ancora Fiat più 6,30%, qui non ci sono più i conti Chrysler, perché quelli Fiat Italia vanno male, i conti Chrysler, ma c'è lo scenario nel mondo dell'auto dopo l'operazione General Motors Peugeot. Esattamente, ormai quasi tutti gli operatori si aspettano nuove partnership nel settore auto, lo stesso amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ha detto di stare parlando con tutti, anche se ovviamente al momento secondo Marchionne non c'è nulla, nessun contatto specifico con altri gruppi, ma insomma gli scenari che si stanno disegnando sono quelli di nuove alleanze, si parla di costruttori asiatici come Suzuki o Mazda, si parla anche di Opel, che si torna a parlare di Opel per quanto riguarda Fiat, comunque sono scenari che oggi in una giornata comunque positiva appunto per il settore industriale ha premiato il titolo Fiat, che è stato il migliore, il secondo miglior titolo del FTSE MIB, è salito del 6,29% a un soffio da 4,7 euro per azione. Bene anche Fiat Industrial, quindi camion e trattori più 4,50%, Ansaldo STS più 4,30%, Tenaris più 4,20%, come sentite tutti i titoli industriali bene si sono comportati. Azimut, che invece ha risparmio gestito più 4%, Exor, la controllante del gruppo Fiat, più 3,90%, e poi le banche corroborate dall'andamento, da come si stava sviluppando l'adesione all'offerta greca, quindi in positivo. Popolare Emilia Romagna più 3,90%, Ubibanca più 3,40%, Popolare Milano più 3,20%, Monte dei Paschi più 3%, Intesa San Paolo più 2,70%. Mediobanca più 1,90%, Unicredit più 1,80%, bene anche Eni più 2,15%, e Pirelli più 3,40%, ma anche Finmeccanica più 3,40%, Campari più 3,20%. Fronte dei migliori e peggiori, Ciccolella, i vivai più 22%, miglior titolo. È successo qualcosa? No. Ma Ciccolella non. Non è successo, non abbiamo nessuna notizia particolare, ma come spesso è un titolo che si muove non sarà perché l'8 marzo oscillazioni molto ampie in positivo o in negativo. Va bene. Sintesi più 15,20 è tra i migliori. Tra i peggiori invece investimento e sviluppo meno 17%, SET pagine gialle meno 10%, e poi Enel appunto meno 5,66%. Le banche, dicevamo, si sono mosse bene in tutta Europa per gli sviluppi della proposta greca. Di questo parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per gli sms. Ultima parte di Focus Economia. Vediamo se anche l'ultima volta che ci occupiamo di Grecia. Dubito, ha ragione chi scrive, ma insomma più che una ristrutturazione sembra un fallimento tecnico, un fallimento pilotato. È così, voglio dire, anche per un privato cittadino, se tu hai debiti per 100.000 euro e ti metti d'accordo con i tuoi creditori che gliene ridai praticamente 46.000, non è che tu sia proprio fallito ufficialmente, ma ci sei molto vicino. È un accordo per evitare di portare i libri in tribunale, si direbbe, di un'impresa, nel caso di uno Stato come la Grecia, per evitare il collasso dell'euro e l'effetto domino su Portogallo, Spagna e Italia. Allora Grecia sia. Sì, raggiunta la soglia del 75% delle adesioni, quindi adesso la Grecia può obbligare, può imporre, se vuole, anche agli altri, a chi non ha aderito, l'accordo, perché questo prevede la clausola, bastava arrivare al 75% per imporre l'adesione forzata di tutti i creditori. Se la Grecia farà questo, però scatterà anche il rimborso dei credit default swaps e quindi lì qualche costo per le banche in più ci sarà. Cosa prevede l'accordo? Lo spieghiamo di nuovo. Chi aderisce, ormai è fatto, cioè anche chi non ha aderito deve aderire, se la Grecia decide di andare avanti in questo modo, perde il 53% e mezzo del valore del titolo. Cioè se uno ha 10.000 euro di titoli greci, ne perde 5.300, gli altri 4.600 euro gli verranno ridati non sotto forma di un'unica nuova obbligazione, ma 1.500 euro praticamente il di EMIX dal fondo ISF, cioè 1.500 euro vi arriveranno da questo fondo. Poi un altro 31% invece sarà ridato con un mix di nuove obbligazioni greche con diverse scadenze tra gli 11 e i 30 anni e con rendimenti tra il 2 e il 4,3%. Quindi dei 4.700 euro che riavrete, 1.500 arriveranno dal fondo europeo, da un'obbligazione del fondo europeo, e 3.200 invece sotto forma di nuove obbligazioni greche, nella speranza che da qua ai prossimi 11-30 anni la Grecia righi dritto. È la più grande conversione, il più grande swap della storia. Sono coinvolti obbligazioni bond per 206 miliardi di euro. Praticamente 18 miliardi sono in mano ai piccoli risparmiatori europei, di cui un miliardo quelli italiani. Vittorio D'Arold, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche perché ci ha raggiunto il direttore da Bruxelles, il direttore del Center for European Policy Studies di Bruxelles, Daniel Gross. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. Allora, Vittorio, swap fatto, capo A, diciamo così? Sì, esattamente. Cioè, il primo punto è che si è raggiunto quel 75% che prevedeva un'intesa in realtà, un accordo della Grecia, non è una vera soglia legislativa. La soglia legislativa per i bond, diciamo, greci, quelli sottoposti a legislazione greca, che sono 177 miliardi sui 206, quindi l'86%, questi prevedevano una quota legale che è molto più bassa, è il 50% degli aventi diritti e i due terzi devono dire di sì, quindi diciamo il 33% di questa soglia, era una soglia molto, molto bassa, però Atene aveva detto se raggiungiamo il 75%, quindi una soglia diciamo così volontaria che ha deciso il governo di Atene, a quel punto decideremo insieme alla Troica se far scattare o meno queste clausole collettive di azione che sono quelle che aprono la strada ai CDS. Sarà l'Unione Europea però che in qualche modo dovrà decidere domani, perché devono decidere i soldi che mancano, perché bisogna arrivare al 95% per arrivare a quell'obiettivo di 120% del PIL. E quindi qui mancano dei soldi probabilmente, non lo sappiamo ancora perché i dati definitivi saranno resi noti domani mattina alle 7 ore italiana. Può darsi che siano sufficienti, ma se non lo fossero, Atene a questo punto ha mani libere per far scattare queste clausole collettive di azione. Allora, rispondo io a molti ascoltatori che dicono, ma insomma questa è una fregatura. Allora, ricorderete il caso argentino, lì ci fu un fallimento vero e proprio, conclamato. Qui non lo si poteva fare perché sennò saltava l'euro di fatto. Però lo sappiamo tutti, Vittorio, che dare in cambio... Vabbè, la parte del fondo ISFF ancora il 15%, vabbè, ma le nuove obbligazioni greche con scadenza a 11-30 anni, rendimenti tra il 2-4-3%, non è il massimo averle in portafoglio, no? Però questo passa al convento. 4% di perdita reale. Ecco. E quindi insomma, attenzione, nessuno sta dicendo che questo sia il migliore degli accordi possibili, però era l'unico che si è trovato. Direttore Daniel Gross, con questa vicenda, oggi abbiamo visto il consigliere di Angela Merkel ancora storcere la bocca, dire fra un anno torneremo a dover ristrutturare il debito greco, però si è chiusa una vicenda che ha rischiato di spaccare in due l'Europa, cioè con l'accordo definitivo, oppure secondo lei i tedeschi non l'hanno digerita veramente? Perché a giudicare dalle parole del consigliere economico di Angela Merkel, che si chiama Peter Bofinger, insomma, loro si aspettano che fra un anno saremo punto a capo. Per il momento non si è chiusa la storia, si è evitato, come dire, un disastro conclamato. Per il momento si è eliminato molto di quel debito pubblico che la Grecia, e per quel debito privato che la Grecia non doveva, ma rimane moltissimo debito pubblico, ancora di più di prima. E questo debito che è dovuto alla Grecia, al Fondo Sovrastati, al Fondo Monetario Internazionale, anche la Banca Centrale Europea, questo debito molto probabilmente si dovrà ristrutturare fra un anno, ma un debito pubblico si può ristrutturare senza, come dire, senza dare all'occhio, si allunga un po' la scadenza, si riduce un po' gli interessi e quasi nessuno se ne accorgerà. Per cui non sarà un'operazione così, diciamo, traumatica, tesa come quella che invece ha portato a ristrutturare tutte le obbligazioni greche in questo modo? No, sarà giusto una decisione presa dal Consiglio europeo e tra l'altro abbiamo deciso che la Grecia quest'anno non pagherà interessi, ma li pagherà un po' più tardi e allunghiamo ancora la scadenza e nessuno ci farà molto caso. Daniel Gross, un'ulteriore domanda sulla vicenda greca. Adesso immaginiamo, come le diceva lei, tanto tra un anno ristrutturare il debito sarà un'operazione più sotto traccia. L'Europa ha rischiato di aprirsi come un melone sulla vicenda greca. Secondo lei, adesso che immaginando che sia conclusa con questa operazione di swap, secondo lei è stata troppo insistente la rigidità tedesca oppure la Grecia fino all'ultimo minuto ha sperato di usare un elemento di ricatto e di farla franca? Tutti e due. Ci vogliono tutti e due per fare un bel teatro e un dramma. Le due parti del melone, diciamo, sì. La Grecia non ha mai fatto quello che doveva, sperando che gli si desse i soldi comunque, perché sennò avviene il disastro. E i tedeschi volevano sempre dire no, questa è l'ultima volta, e ogni volta sotto la pressione anche dei partners e delle loro stesse banche hanno dovuto acconsentire a dare altri soldi. Finché non siamo arrivati a questo punto in cui la vicenda non si chiude, ma c'è una spirale che si possa chiudere in un modo meno traumatico di quello che molti di noi credevamo. Lei ha sentito come Mario Draghi oggi ha risposto al presidente della Bundesbank dicendogli in sostanza grazie per quello che avete fatto nel passato, ma adesso la banca centrale la faccio io e 460 banche tedesche hanno aderito alla mia operazione. Secondo lei alla fine Draghi riuscirà anche a, diciamo, a superare sulla destra, diciamo, le resistenze tedesche? Questo sarà molto difficile. Lui prima già ha avuto è riuscito a creare una grande trappola, che è quella di dover comprare moltissimo debito italiano. Ci si dimentica molto facilmente, ma lui quando è arrivato aveva davanti a sé la prospettiva di dover comprare 500 miliardi di debito italiano. Adesso nessuno ne parla più. E adesso lui distribuisce soldi alle banche, tutte le banche, anche le banche tedesche, e con questo si attirerà sempre il fuoco dei conservatori tedeschi, ma per loro sarà sempre difficile dirgli che questo lo fa per dare sostegno all'Italia. Perché anche le banche tedesche ne approfittano, per cui lui rimarrà sotto fuoco, ma secondo me lo può reggere. Grazie sia a Vittorio D'Arold che a Daniel Gross. C'è chi ci fa notare che il 47 è il morto che parla, non lo so, non conosco la smorfia, e 47 è l'offerta greca rispetto al valore nominale delle obbligazioni. Non so se volete giocarvi anche i numeri per la smorfia, per me va bene. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.